esattamente una colonna sonora tipica del Breakfast Club, ma che la primavera imminente porta a farmi dire che possano sbocciare mille fiori, grazie anche al lavoro di Simona Cantelmi, lavoro che è già stato in scena. È un evento tributo ai Nirvana, Remembering Kurt Cobain, al Teatro del Baraccano a Bologna alle ore 21, domani sabato 2023, l'11 marzo, ore 21. Ho cambiato l'ordine del fattore, ma la qualità non manca, è qua con noi la voce di Simona. Buongiorno Simona. Ciao Willy, buongiorno a tutti. La sveglia ha funzionato e di questo ne sono molto contento, quindi noi ti presentiamo, già presente a sua volta per il Breakfast Club, giornalista, scrittrice, tra l'altro stiamo aspettando la tua uscita che presenteremo nelle nostre rubriche, ma questa volta sarai in scena, diciamolo per bene, alle ore 21 sabato 11 marzo al Teatro del Baraccano, in via del Baraccano 2. Hai già portato il Remembering Kurt Cobain, quando nasce e perché hai voluto dare il via a questa narrazione, Simona? Guarda, dicevi tu appunto, l'abbiamo già portato in scena l'anno scorso per i 55 anni di Kurt Cobain, il 22 febbraio, proprio per il suo compleanno, al Teatro di Cotignola, che tra l'altro è molto carino, il Teatro Binario di Cotignola, ne approfitto per dirlo, insomma se vi capita andate, guardate la programmazione, andate a vederlo. Ma al di là di questo, abbiamo fatto un lavoro, io ovviamente mi occupo della narrazione, della vita, dei testi, ho scritto un racconto apposito sulla vita di Kurt Cobain, e i miei interventi saranno intervallati dalla musica dal vivo della band AK-47 che suonerà l'Unplugged in New York in maniera integrale. Parliamo anche della tua narrazione in quanto nasce da una tua passione per questa storia e per queste sonorità. Perché appunto hai voluto scegliere, diciamo così, questo importante pezzo di storia della musica? Guarda, sono stata contattata dalla produzione, la Brighton Rock Havens, e dai musicisti che mi hanno detto appunto vogliamo fare qualcosa di più, non il semplice concerto. E quando mi è stato proposto ho detto, Kurt Cobain e Nirvana sono nella mia vita, sono nella mia adolescenza. Io quando ero bambina mi ricordo appunto questo video pazzesco di Smell Like Teen Spirit, che era proprio un video di rottura a quei tempi, e quindi quando mi sono messo a studiare per scrivere il testo avevo delle cose che già sapevo e che ho approfondito, e tra l'altro è stato quasi, questo lo dico spesso, cioè Kurt Cobain purtroppo sappiamo la fine che ha fatto, però la sua musica e i suoi testi delle sue canzoni sono comunque salvifici, lo sono state per tante generazioni, ma anche oggi continuano ad esserlo, e è stato così anche per me, perché mi ha dato una grandissima spinta, una grandissima forza creativa. Sì, indubbiamente, come ho detto, un importante segmento della storia della musica, tra l'altro uno degli ultimi per quanto riguarda la creatività in ambito rock. Con Kurt Cobain procedono le nostre biografie, in settimana abbiamo presentato Janis Joplin, tra 2022 e 2023 il premio Pellegrino Italia con John Lennon curato da Silvia Albertazzi, aggiungiamo questa figura che sarà al Teatro del Baraccano domani alle ore 21. Quindi musica, narrazione, e le tue ricerche come si sono sviluppate, Simona? Si sono sviluppate libri su libri, biografie, libri sui testi delle canzoni, soprattutto perché ho voluto proprio anche andare a mettere in parallelo il suo tormento emotivo di questa grandissima, di questo grandissimo personaggio, con i testi che scriveva. Il tormento c'era nei testi, ma non solo, ecco, non pensiamo che abbia scritto solo della sua vita disperata, perché non è assolutamente così, Certo, e quanto di te c'è in tutto questo? Quanto ti sei riconosciuta, oltre che nel ricordo, per quanto riguarda il parallelismo? Perché se hai portato tale biografia, indubbiamente vi è anche, oltre la forza che ti è stata tramandata, anche qualcosa di più. Ce lo vuoi raccontare, Simona? Guarda, vabbè, io sì, mi occupo di musica da più di 12 anni, per vari motivi, insomma, per lavoro, eccetera. Facendo questa cosa veramente mi ha soprattutto è capitato di doverci lavorare in un momento particolare della mia vita, e lavorarci mi ha dato una forza veramente molto potente. Certo. Io in passato mi sono laureata in lettere, ho fatto studi storici, diciamo, come formazione, quindi ho fatto biografie di personaggi storici. Quindi in qualche modo l'aspetto biografico, ma l'aspetto biografico non puramente appunto storiografico, ma proprio della persona, è una cosa che io ho dentro, capito? Sì. Andare a vedere la parte della persona, cioè la storia, non solo la storia con la S maiuscola, ma la storia, diciamo, con la S minuscola, ma in realtà che è altrettanto importante, è la storia dell'uomo. Ecco, questa cosa qui è un elemento continuativo del mio essere, del mio lavoro, ecco, sostanzialmente. Nell'interpretazione di questa biografia. Sì, e anche l'interpretazione di questo, sì. In via del Baraccano 2, domani alle ore 21, quindi Teatro del Baraccano a Bologna. Ricordiamo invece che a Budrio, questa sera, mi pare, a Bologna, sì, abbiamo Andrea Santo Nastaso con Mi chiamo Andrea e faccio fumetti. L'ennesima replica, perché? Perché è un lavoro bellissimo, è un lavoro che in una sede da valorizzare, che sono le Torri dell'Acqua di Budrio, per cui tu come direzione artistica e organizzatrice collabori, per cui mi è sembrato giusto nella rubrica In Scena darne citazione. Io ti ringrazio tantissimo, Simona, per quanto riguarda questa conclusione in musica e parole del nostro Breakfast Club. Grazie a te, vi aspettiamo in teatro. A teatro, ciao. Ciao. Ciao. Visto Sergio in una diretta, quante cose! Ma è una cosa bella, anche perché ho sentito che l'impegno di Simone in questo lavoro è di restituire la parte di Kurt Cobain che non corrisponde al cliché diffuso. Certo. Perché tutti gli artisti vengono riconosciuti per una certa particolarità e si è molto inciso su quella, ma c'è anche tutto il resto. E tutto questo viene ricercato e sviluppato quando si fa un parallelismo con la propria vita, ed è per questo che per l'ennesima volta ribadisco: è importante raccontarsi. Che quando vi dicono ma parli di te, ma meno male che parliamo di noi, questo secondo me è sacrosanto nell'ambito dell'arte, della narrazione, dell'espressione musicale, del teatro, letteratura e quant'altro. In tutto ciò il Breakfast Club dal lunedì al venerdì dalle 7 fino alle 8:50, quindi sono le 8:49, abbiamo un minutino, in questo minutino io ringrazio tantissimo Sergio Fanti. Alla grazie prossima. A voi, grazie a tutti. Ovviamente, augurandovi un buon weekend, vi do appuntamento alle 11:30 con Jazz Live. Noi adesso andiamo a prendere un caffettino, dai, facciamo un po' dai. Colazione, augurandovi una buona mattinata, ma soprattutto un buon weekend. E dal vostro William Piana un caloroso abbraccio. Grazie, un abbraccio anche da me, ciao. Ciao.